E poi ha ragione chi dice che nessuno guarisce dalla propria infanzia, ma ha ragione pure chi dice che tutto dipende da quello che ci facciamo con la nostra infanzia, Ho voluto iniziare con questa citazione per quanto riguarda lo spettacolo, e anche qui abbiamo una struttura molto particolare, è un docu-puppets e ci parlerà con maniera più dettagliata Fabiana Iacozzilli per quanto riguarda la classe al Teatro La Casa del Popolo, ottava edizione Agora, è a Castello d'Argile in via Matteotti 150, sarà domani alle ore 21. Intanto buongiorno Fabiana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ho trovato queste due righe per cui le ho volute riportare perché le ho trovate particolarmente suggestive. Allora, iniziamo da queste sensazioni, poi passiamo alla struttura della classe, e che tra l'altro è uno spettacolo ovviamente per tutte e per tutti, a maggior ragione. Ci puoi dire qualcosa di più? Ma sì, partendo dalla citazione, partendo insomma da queste due frasi, la prima, nessuno guarisce dalla propria infanzia, è una frase letta in un fumetto di Zero Calcare, alla quale appunto mi riferisco nel finale dello spettacolo, perché insomma lo spettacolo, per dire due parole sullo spettacolo, è uno spettacolo in cui racconto di un'esperienza avuta negli anni dell'infanzia, dai 4 ai 9 anni in un istituto di suore con altri 30 bambini, e insomma dentro questo istituto l'educazione era, i metodi educativi erano abbastanza discutibili, insomma. E però io sono partita dal voler raccontare di questa esperienza, quindi ho rintracciato i miei compagni di classe, anche e soprattutto perché volevo capire se quei ricordi erano, se quegli accadimenti erano veramente accaduti, perché poi non, insomma, erano stati un po' rimossi, un po' messi da parte, e quindi non, noi ci eravamo tutti persi con gli altri, non ero mai più ritornata lì. Quindi un primo, come dire, una prima spinta è stata il voler capire se era tutto era andato come lo ricordavo, e quindi l'esigenza di ricostruire questa comunità intorno a me, no? Di compagni e compagne. E però ho pensato da subito che avevo bisogno un po' di allontanarmi dal realismo e quindi trovare una lingua scenica che potesse di più aiutarmi a raccontare questa storia, per non cadere in facili patetismi, no? E quindi sono arrivata al teatro di figura. Per me era la prima volta che utilizzavo il teatro di figura. È ovviamente, come dicevi tu, uno spettacolo che non rivolto ai bambini, cioè non è un teatro ragazzi, è un teatro per adulti. E appunto insomma sono partita a voler raccontare questa storia, ma poi mentre ero in prova nella scrittura scenica mi sono resa conto che alla fine lo spettacolo non parlava, per fortuna, solamente di questi, appunto, di questi episodi della nostra infanzia, ma parlava soprattutto di che cosa ognuno di noi è in grado di fare a partire dalla trasformazione della propria infanzia, cioè a partire anche, no, da un dolore, a partire da qualcosa che è rimasto lì cristallizzato nel tempo e che siamo in grado comunque di trasformare. Ed anche, non in ultimo, una riflessione sui maestri, su quelle persone che incontriamo nel nostro cammino, che in un modo o in un altro condizionano la nostra esistenza. Sì, decisamente. E infatti è un interessante viaggio che dà continuità anche agli aspetti di cui abbiamo parlato in precedenza a proposito di infanzia. Io vedo una sterminata tante collaborazioni per quanto riguarda questo lavoro. Ce ne puoi parlare, Fabiana? Sì, beh, le collaborazioni sono state tantissime, come dicevi. Abbiamo, insomma, lavorato con Uber Westcamper, che è un ingegnere del suono, un disegnatore del suono, sound designer, a lungo, perché appunto volevamo comunque raccontare un mondo onirico, quindi abbiamo un mondo dell'infanzia, un mondo del ricordo, quindi ha fatto un lavoro splendido sul microfonare i pupazzi, i banchi, le penne, per cui insomma c'è un lavoro, il suono di questo ricordo, di questa classe diventa veramente quasi un concerto a tratti, insomma è molto interessante il lavoro che ha fatto. E con Fiammetta Mandic, che è la scenografa dello spettacolo, abbiamo fatto un lavoro, ha fatto un lavoro interessantissimo, perché partendo dalle fotografie dei miei compagni di classe da bambini, ha creato i volti di questi miei compagni di classe. E li ha riprodotti con le marionette? Sì, sì, sono dei puppets da tavolo, sì. Sono quelli che sono, diciamo, manovrati con le bacchette, con le stecche. Con le bacchette, certo, sì, ho capito. Sì, sì, sì. Poi vedo nella classe Fabiana Iacozzilli, Crampi. Sì. Ci puoi dire qualcosa di più? Non ho capito, scusami, William. Crampi è la compagnia, okay, la compagnia produzione con la quale ormai lavoro stabilmente dal 2017. Sono insomma Antonino Pirillo e Giorgio Andriani che mi accompagnano in questo percorso di lavoro. Nello specifico la classe fa parte di una trilogia alla quale abbiamo lavorato appunto con Crampi, e sono la classe, Una cosa enorme, che è il secondo capitolo, che invece parla della maternità, della paura del prendersi cura di qualcuno, e il terzo capitolo, che debutterà a Roma Europa Festival il 15 novembre, che invece sulla vecchiaia e sulla memoria. Sì, un percorso. A proposito, tra l'altro, io avevo, che possa riposare in pace, una nonna materna veramente severa, veramente autoritaria, una figura insomma che certamente non le mandava a dire a tutte e a tutti. Sai come si chiamava? Lidia. No, mamma mia, come la mia suora. Esatto, che vi terrorizzava, quindi nome e destino. Quando ho letto una delle figure ho detto: ma pensa a te, terrorizzava la classe, e allo stesso modo la nonna Lidia aveva motivo di terrorizzare un po' ci sarà qualcosa, ci sarà un seme nel nome, ma chissà, adesso non cadiamo in queste casuali, però chissà, ho trovato, è stato inevitabile. E puoi restare 2 minuti in diretta, che diamo ancora motivo di presentazione per quanto riguarda questo lavoro, la classe Fabiana Iacozzilli, Crampi, sabato 28 ottobre 2023, cioè domani alle ore 21 al Teatro La Casa del Popolo in via Matteotti 150, Castello d'Argile, provincia di Bologna. Ovviamente tutto ciò è l'ottava edizione di Agora. Puoi restare un pochettino? Sì. A tra poco. Like two balls in the land, in Charlotte, you know what I'm saying? Crook town, crook land, I build up. We're gonna do something like this, folk type way. Gotta watch the beat as it increase and re-release. Dub your set to your ear and you see. Sit back and relax, let the bio pump. As I'm sure that poor red boy, we got the funk. We got the funk. Introducing the never losing, we only cruising. Up the chunk, smooth ass, that puts in view of it. Of it. Stop, freeze, take a hold, take a stand as the Asiatic black man. Saw the high, smell it done, see the number one first in existence. And in the instance, I'ma rock steadily, simultaneously. These things over again every time you see the mic in my hand with the one man brand. DJ Mark Boy, bar main ticket. The beast is lamb, can't you understand? Come on, get on the dance floor. One fun for all of y'all. Right to go, I'll just display my skills in that funky type of way. No junkie, if you don't like it, step to the front and confront me. If you want me, boy, make sure that you come up front right. Cause if you don't, then you're in for a fight. On your hands, cause I'll be damned if I ever let a talking toy fancy in. Get a piece of the action, as I'm acting. And I'm a bold fancy at total satisfaction. And I'll say around Mark West to be Park that show the groove to you. We got the funk. J-Funk Express, We Got the Funk. We got the funk. nella playlist mattutina di Radio Città Fujiko per il Breakfast Club che vi porta a teatro nella rubrica In Scena. È vigilia di weekend e quindi ricordiamo, noi seguiamo Agora, la stagione che è arrivata all'ottava edizione, la classe sabato 28 ottobre, cioè domani alle ore 21 a Castello d'Argile. Fabiana, ci sei? Immagino di sì. Sì, ci sono. Perfetto, allora altro aspetto che mi ha così incuriosito, io poi ho la passione dei nomi, delle etimologie, anche di qualcosa che può suonare come una novità e un incontro tra termini, come il docu-puppets, come è arrivato questo termine? Ma questo termine è arrivato... ce lo chiedono in tanti, devo vedi, dire. Come perché... sono banale anch'io. No, non ho detto questo. No, no, però effettivamente è nato per caso, proprio in un viaggio in furgone per trasportare la scena. Eravamo proprio lì che dovevamo decidere, pensavamo un sottotitolo, come possiamo chiamarlo. E eravamo con Antonino Pirillo e Giorgio Andriani, per appunto insomma i produttori di Crampi. E in realtà è venuto in mente ad Antonino e ci sembrava appunto veramente la sintesi perfetta, perché è uno spettacolo fatto non è uno spettacolo di teatro di figura, questo è molto importante, è uno spettacolo fatto attraverso, che utilizza il mezzo del teatro di figura da un lato, e dall'altro utilizza il teatro documentario, cioè a tutti gli effetti è anche un documentario, perché all'interno dello spettacolo sentiamo le voci di queste mie interviste, le registrazioni, per cui ci sembrava veramente un punto di incontro perfetto, certo, tra i due linguaggi, tra le due ricerche in atto in quel momento, ecco. L'espressione e la ricerca, giusto. E ascolta, quando hai fatto ricerca con i tuoi compagni, li hai contattati, no? Beh, come hanno reagito? Come hanno... Allora, devo dire che appunto non c'eravamo tutti persi. E in questo Facebook ovviamente, come sappiamo tutti, mi ha aiutato tantissimo, alcuni si sono messi a disposizione, altri non hanno voluto sapere nulla. Hanno rimosso tutto. Assolutamente, alcuni proprio non sono voluti entrare in questa partita insieme a me. E alcuni, ma molto eravamo in tanti, però proprio pochi, se non sbaglio 3-4, non sono riuscita a rintracciarli, ma parliamo di sì, 3 persone, non di più. Però la maggior parte comunque hanno aderito. Devo dire che pochissimi sono però poi venuti a vedere lo spettacolo. Perché andare a toccare appunto a proposito di docu puppet, andare a toccare queste corde a volte un pochettino sono corde scoperte, ecco, diciamo sì, devo dire sì. Io ricordo per me lo spettacolo è un spettacolo importante, un spettacolo, certo, che comunque mi ha, come dire, con il quale ancora giriamo, uno spettacolo del 2018, per cui è importante come lavoro, però per me forse la parte più interessante è stata la parte della ricerca e la parte la costruzione della costruzione, anche del ritrovare questo passato, di ritrovare le persone, eccetera. E può essere anche di stimolo per quanto riguarda noi stessi, perché in quel periodo, interfacciando la nostra vita con insegnanti, è qualcosa che porta a dialogare con se stesso anche la spettatrice e lo spettatore, questo per quanto riguarda che il racconto. Diciamo che sì, lo facciamo per questo, e anche per la narrazione della specificità di quella classe. Fabiana Iacozzilli, io ti ringrazio tantissimo e grazie, ti do appuntamento per un'altra presentazione al Breakfast Club In Scena. Buona giornata, ciao. A te, ciao. per la Strat Record, Mulatu Astat, che è jazzista etiope insieme agli Heliocentric, un disco di una bellezza. Vi ringrazio per l'attenzione, per aver fatto colazione con il Breakfast Club. Grazie Cristina, grazie Lino, grazie a tutte e a tutti voi. Basso, bella questa intersezione in musica, è la nostra sigla di chiusura per dare appuntamento a lunedì. Sto già preparando i magazine, nonostante debbano ancora uscire, ho già delle idee per la colazione in diretta. Ma intanto il weekend è sereno, a quanto pare, finora almeno, quindi vi auguro un weekend bellissimo e con un caloroso abbraccio. Vi do anche appuntamento alle 11.30 con Jazz Live e a colazione per lunedì. Godetevi il weekend, un buon ascolto sui 103.1 e un buon venerdì dal vostro William Piana.